Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Barbara. Questo è Yogurt Acid Care, una visione molto fluida ed estensiva della pratica dello yoga, vista come cura radicale applicata in un contesto non bucolico né idilliaco, ma frenetico e abbastanza matto, che è quello urbano. Trasmettiamo da Milano. Questo è il dodicesimo episodio di una serie di 14. Io sono un'insegnante, una praticante devota di Hatha Yoga e inserisco altre tecniche, tra cui Iyengar. E quello che faccio qui non pretende di essere una spiegazione esaustiva della materia, semmai qualche spunto per poi ricercare in maniera autonoma. Non voglio insegnare niente a nessuno, ma semplicemente condividere qualcosa che è stato utile o piacevole per me. Questi episodi di yogurt sono nati dall'esigenza di creare un comfort durante questa seconda ondata di lockdown e zona rossa a causa del Covid-19. Ho ripetuto più o meno 50 volte il concetto che siamo un po' abbandonati a noi stesse, per cui questo mio contributo vuole essere una piccola sveglia quotidiana, una pillola di riflessione che può aiutare a settare, programmare il nostro mood, quindi il nostro umore e l'attitudine nei confronti della giornata in una maniera alta, con frequenze alte. Come settiamo i mood? Ogni episodio dura mezz'ora, dalle 10 alle 10:30, va in onda su radiovirus.org ed è disponibile poi in archivio e anche sul mio Mixcloud, rintracciabile attraverso la pagina di Radiovirus oppure attraverso il mio Instagram, chiocciola Barbara Lamulas. Sul mio Instagram trovate anche delle pratiche più consone alla disciplina dello yoga in Occidente, quindi più fisiche. E poi trovate tutti i link degli streaming di questa serie e della serie vecchia durante il primo lockdown di marzo. Ho selezionato durante questo percorso una serie di mantras e parlavo anche dei sette interruttori per la felicità. Oggi siamo arrivate all'ultimo mantra. Domani e dopodomani saranno più delle pratiche di review di tutto quello che abbiamo fatto. Andremo un po' a rivedere in ordine un po' l'orchestrazione di questi significati dei mantra e cercheremo di fare una pratica più personalizzata. Oggi mantra e Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Sembra molto difficile, piano piano ve lo ripeterò un paio di volte, così potete anche andare a farvi una piccola ricerca se avete bisogno su internet. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Thank you. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Questo è un mantra di origine hindu e buddista. Due parole per l'ultima volta sui mantra. I mantra sono cibo, nutrimento, energia per la nostra anima e per la nostra mente. Hanno un contatto diretto con l'anima, hanno la capacità di far riverberare un certo tipo di frequenze specifiche all'interno del nostro corpo e raggiungere la nostra anima attraversando la mente, chiaramente. I mantra in teoria si recitano 108 volte. I mantra possono essere recitati in forma verbale o mentale e possono avere un'intonazione oppure no. L'intonazione e la vocalizzazione chiaramente accentua il riverbero delle frequenze prodotte, ma i mantra richiedono uno studio approfondito. Sono una materia complessa è abbastanza legata allo spirito, per cui non va sottovalutata l'importanza simbolica che lo studio di questi mantra ingloba. Se siamo persone curiose da questo punto di vista, sarà bene che ci informiamo leggendo, ascoltando e affidandoci a qualcuno che ha una conoscenza approfondita della materia per evitare inutili appropriazioni o misinterpretazioni culturali. Loka Samasta Sukhino Bhavantu è anche questo un mantra antichissimo. Come ho detto prima, l'origine è hindu e buddista. La prima traccia di questo mantra la troviamo nei Veda, antichissimi testi, e viene tradotta in questo modo: possano tutti gli esseri in ogni luogo essere felici e liberi, e possano i miei pensieri, parole e le mie azioni contribuire in qualche modo alla felicità e alla libertà di tutti. Andiamo a vedere parola per parola. Loka significa la realtà, tutto l'universo esistente adesso. Samasta, tutti gli esseri che condividono questa stessa location. Sukhino, libero dalle sofferenze, focalizzato su felicità e gioia. Bhav è quello stato umorale divino in cui ci si sente un'esistenza unificata. Antu è un'invocazione a che così possa essere. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Questo mantra rappresenta in qualche modo quello che il 14° Dalai Lama ha chiamato Enlightened Self-Interest, un interesse personale elevato al di là dell'ego personale che coinvolge tutti gli esseri viventi dell'universo. Lo recitiamo? Sicuramente per una trasformazione personale, ma non perché desideriamo personalmente questa illuminazione, piuttosto perché in questo modo, attraverso questa illuminazione, possiamo contribuire alla trasformazione globale che potrà alleviare le sofferenze e generare un po' più di equalità, uguaglianza, qualità è tradotto dall'inglese, uguaglianza. Attraverso questo stato di ricerca di una trasformazione e illuminazione interna, noi ne beneficiamo noi stesse e attraverso il nostro raggiungimento di questo stato diventiamo in grado di condividerlo con il resto dell'universo e di portare benessere agli altri. Lokha Samasta Sukhinho Bhavantu. May all beings everywhere be happy and free, and may all the thoughts, words and actions of my life contribute in some way to that happiness and to that freedom for all. Ci ricorda in qualche modo questo mantra che la nostra relazione con gli esseri viventi è di codipendenza e dovrebbe essere di beneficio reciproco in qualche modo. Se noi desideriamo per noi stesse felicità e liberazione dalle sofferenze, questo desiderio dovrebbe eludere il nostro ego ed essere proiettato verso tutto ciò che ci circonda, tutto l'universo e gli esseri viventi che lo abitano si meritano la stessa felicità e liberazione dalle sofferenze che noi desideriamo per noi stesse. Non esiste felicità vera o duratura che viene dall'aver causato precedentemente infelicità e sofferenza agli altri. Non esiste una libertà reale e duratura che viene dall'aver privato gli altri e le altre dalla propria libertà. Se siamo convinte che vogliamo che tutto l'universo faccia esperienza di felicità e libertà, allora dobbiamo mettere in discussione tutto ciò che facciamo, come viviamo, come mangiamo, come compriamo, come parliamo e come pensiamo. Lo yoga inizia dai principi morali di comportamento. La vera felicità parte da un pensiero reciproco di felicità condivisa. Non posso vivere felicemente in un posto circondata da violenza. Non posso pensare che la mia felicità sia reale se ha causato infelicità attorno a me o se la potrà produrre nei riverberi futuri. Io sono l'universo, l'abbiamo visto in tanti tanti mantra, e quindi se io sono l'universo devo trattare questo universo in maniera equanime. È un rapporto di mutual beneficial, reciproco beneficio scambio. Loka samasta Sukhino Bhavantu. Auguro a tutti gli esseri di essere felici e liberi, e possano le mie parole, le mie azioni, i miei pensieri contribuire in qualche modo alla felicità e libertà di tutto e tutte. Thank you. ci prepariamo alla nostra pratica. Il soundscape di oggi rimarrà lo stesso, è leggermente più offbeat del solito. Durante questi episodi avete sempre sentito raga, tablas e comunque musica classica indiana. Stiamo ascoltando musica classica. Se vi piace andate a farvi delle ricerche, ci sono delle musiche spettacolari da questa cultura che ci è lontanissima, ma in qualche modo ci fa bene anche a questa distanza. Troviamo una posizione confortevole, sdraiata o seduta. Prima di bloccare la posizione e immobilizzare il corpo durante la pratica meditativa, facciamo qualche stretch se abbiamo bisogno di risvegliare le nostre membra. Strecciamo le braccia oltre la testa, muoviamo la cassa toracica. Allunghiamo i lati del corpo, facciamo qualche torsione, qualche twist. Se abbiamo la possibilità, muoviamo anche il bacino e la zona pelvica. Dopodiché troviamo la nostra posizione. Palmi delle mani, se siamo sdraiate, rivolti verso l'alto, se siamo sedute, morbidi sulle cosce e sulle ginocchia. Chiudiamo gli occhi e portiamo tutta l'attenzione all'interno. Se abbiamo gli occhiali, leviamoli per qualche minuto. Inspiriamo ed espiriamo solo, esclusivamente attraverso il naso. E mentre inspiro l'addome si gonfia leggermente. E durante l'espiro si sgonfia, l'ombelico si contrae, spingendo verso la colonna. Cerchiamo di percepire durante l'inspiro un movimento interno al nostro corpo, di energia che si sposta dai piedi alla testa. E mentre espiro, questa energia rigenerata ritorna dalla testa ai piedi. Concediamo al corpo un rilassamento totale e profondo attraverso l'uso dell'espiro come strumento di pulizia e connessione. Iniziamo una piccola pratica yoga nidra, visualizzando e sentendo attraverso i sensi i nostri piedi, estremità opposta alla nostra testa. Sento ed espirando rilasso completamente piante, talloni, dita, collo, torso, caviglie. Procedo e sento tutto il lato che tocca la superficie su cui appoggio del mio corpo. E lo rilasso, tutte le gambe, il retro. Sento il fronte e rilasso completamente il fronte delle gambe. Arrivo al pube, all'addome. Lentamente espiro, dopo espiro rilasso gli organi interni. Distendo il diaframma e visualizzo, sento e rilasso il torace. Lascio andare le tensioni. Si rilassano anche le clavicole e le spalle. Ascolto la schiena. Espirando rilasso ogni singola vertebra sino alle cervicali e lascio andare anche le scapole, i trapezi. Sento il retro delle braccia. Lo percorro espirando, arrivo alle mani. Lascio andare il dorso, le dita, i palmi ed entrambi i polsi. E con il respiro percorro il fronte delle braccia, le lascio andare. Rivolgo i miei sensi e le attenzioni al capo. Visualizzo e sento i capelli uno a uno attraverso la nuca. E rilasso uno a uno. Sento l'aria a contatto con la superficie del viso. Rilasso completamente le tensioni dalle tempie, gli zigomi, le guance, le orecchie e la mascella. Visualizzo e ascolto la bocca, rilasso la lingua, dischiudo i denti e le labbra espirando e lascio che tutto il mio viso sia sorridente, raggiante, luminoso. Sento l'aria attraverso le narici, visualizzo le vie aeree ed espirando le lascio andare e elimino poi le tensioni da occhi, palpebre, sopracciglia. Rivolgo poi tutti i miei sensi, la mia attenzione e il mio respiro al centro della fronte, tra le due sopracciglia, l'Ajna Chakra, il mio terzo occhio, dove convergono tutte le attività del pensiero sotto forma di onde. In questo momento, con il mio respiro, cerco di eliminare le onde e fare spazio alle attività neurali di questa giornata. Rilasso completamente la mia fronte. Osservo il mio corpo, il mio respiro e la mia mente. Non giudico né interagisco, ma abbraccio questa sensazione di connessione e cerco di mantenerla durante la pratica del mantra. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Cerchiamo di pronunciare mentalmente a voce alta il mantra durante la lunghezza dell'espiro. Cerchiamo di inserirlo morbidamente durante l'espiro senza forzarlo né forzare la respirazione. Cerchiamo di fare quello che possiamo senza forzarci. Se sentiamo che siamo troppo tese, abbandoniamo il mantra, facciamo qualche respiro più profondo e riproviamo. Lokha samasta sukhino bhavantu. Lokha samasta sukhino bhavantu. Lokha samasta sukhino bhavantu. Ognuna procede con il proprio ritmo, nella propria individualità. Sarete invitate ad abbandonare il mantra dal suono della campanella. Lokha Samasta Sukhino Bhavantu. Possa tutto l'universo essere libero e felice e io, attraverso le mie parole, pensieri e azioni, contribuire a libertà e felicità di queste. Lokha Samasta Sukhino Bhavantu. Molto lentamente abbandoniamo il mantra. Facciamo qualche respiro più profondo per risvegliare il nostro corpo, allentare le tensioni. Se vogliamo interrompere la meditazione prima di riaprire gli occhi, partiamo risvegliando le dita delle mani e dei piedi e muovendo gentilmente il nostro corpo. L'episodio termina qui. Settimana scorsa, in questa stessa giornata, avevamo visto il quinto switch per la felicità ed era Give thanks, siamo grati, ringraziamo. Cerchiamo di affrontare le cose con questa prospettiva di gratitudine. È una prospettiva. Cerchiamo di riflettere su questa sensazione, questa prospettiva di gratitudine e sul nostro approccio a questa durante la settimana appena passata. Siamo state grate, nonostante tutta questa miseria che ci circonda, abbiamo trovato qualcosa per cui siamo grate. Possiamo adesso, ex post, vedere qualche evento, qualche situazione, qualche persona, qualche emozione e affrontarla con questa prospettiva di gratitudine. Anche le cose più schifose ci possono insegnare qualcosa. Domani e dopodomani sono gli ultimi due episodi. Io vi ringrazio ancora che mi seguite e vi lascio così con qualche minutino ancora di questa magnifica musica indiana. Ciao. Mm-hmm.